Salva Danaio di Deborah Rosciani. Una buona giornata a tutti da Deborah Rosciani, bentornati a Salva Danaio, ben ritrovati. Oggi parliamo di una tipologia di prodotti di risparmio e di investimento che alle famiglie italiane è sempre abbastanza piaciuta, ma che con la crisi ha visto crescere a dismisura i tassi di raccolta. Parliamo delle polizze vita, perché nelle ultime settimane è stato enfatizzato sensibilmente il dato relativo alla raccolta di questi prodotti nell'ultimo anno e mezzo. Abbiamo una statistica che risale alla fine di agosto, quando risultavano collocati dall'inizio dell'anno prodotti per oltre 51 miliardi di euro, manifestando una crescita percentuale rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso del 28%. I risparmiatori hanno privilegiato le cosiddette polizze di ramo primo, cioè strumenti assicurativi a capitale garantito. Rispetto all'anno prima sono cresciuti del 13,6%, ma anche il ramo terzo, cioè unit e index linked. Questa parola l'abbiamo imparata a nostro malgrado, soprattutto negli ultimi anni, anche in questo caso per effetto della crisi. Sono assicurazioni i cui rendimenti sono legati a quote di fondi di investimento o ad azioni o ad obbligazioni. Anche questi prodotti hanno manifestato un consenso enorme fra i sottoscrittori, tanto che la raccolta risulta praticamente triplicata. E questo è un dato. Eppure si continua a sostenere che le famiglie italiane siano largamente sottoassicurate, che non abbiano percezione della necessità di assicurarsi. Allora, cosa c'è dietro a questa tendenza di cui vi abbiamo appena raccontato e dato le cifre percentuali di crescita? È una tendenza figlia della crisi? Che cosa hanno cercato i risparmiatori in questi anni di turbolenza finanziaria, che hanno mandato, lo sapete bene, sulle montagne russe il risparmio generale investito in borsa e nel mercato obbligazionario? Molte famiglie hanno cercato di accantonare il proprio risparmio in prodotti liquidità, in pronti controtermine, ma molte hanno anche scelto appunto il settore assicurativo. Ricercando che cosa? Stamattina un tema che discuteremo con la nostra Federica Pezzatti, Plus 24, Il Sole 24 Ore. Ciao, bentornata. Buongiorno a tutti. E buona giornata alla dottoressa Antonella Maier, responsabile ramo vita di Assicurazioni Generali. Buongiorno e benvenuta anche a lei. Buongiorno, grazie, ben trovati. Tra l'altro, proprio dal gruppo Generali ci è arrivata una ricerca piuttosto interessante che è stata condotta da Swiss Re e che ha diffuso appunto recentemente i risultati di uno studio condotto in 12 paesi europei sull'assicurazione vita, da cui emerge che i consumatori non hanno, appunto, lo dicevamo poco fa, la percezione della necessità di assicurarsi, sia per garantire la sussistenza della loro famiglia in caso di decesso, sia per coprirsi dal rischio di invalidità. Qui parliamo proprio ovviamente delle formule assicurative più tradizionali. Federica, prima di sentire la nostra scheda parlo subito con te, quindi qua parliamo proprio delle esigenze di base del settore assicurativo. Forse ramo primo e ramo terzo siamo già ad un step più avanti. No, diciamo che in Italia c'è stata una grossa diffusione di polizze, però pensate come polizze finanziarie, quindi non diciamo come una temporanea caso morte o una polizza di invalidità in cui tu paghi un premio per coprire da un rischio, un po' come la RC auto, no? E poi quel premio va, se non viene, se, diciamo che va a perdere, giustamente, perché la funzione è proprio quella assicurativa, la classica polizza che mi copre appunto dagli inconvenienti che possono sempre accadere, purtroppo. Quindi sono dei premi che si pagano per tutelarsi, tutelare la propria famiglia. Ecco, questo concetto noi in Italia ce l'abbiamo un po' poco presente, perché siamo stati forse abituati un po' per via delle agevolazioni fiscali che hanno in passato, mi riferisco prima del 2000, hanno appunto spinto molto quei prodotti ibridi misti con una, diciamo, magari si pagava un premio che veniva nel tempo rivalutato e c'era una minima copertura caso morte o invalidità, però erano prodotti ibridi che non assolvevano bene la funzione protettiva, e quindi questo probabilmente ha un po' non fatto comprendere ai risparmiatori quali sono le peculiarità dei prodotti assicurativi, che sicuramente sono appunto quelle più della protezione che dello strumento finanziario in sé, concorrente a BOT o a CCT. Ecco, forse manca questo concetto. E probabilmente anche tutto questo sta riportando la stessa industria a ripensare un po', a ritornare sul sentiero della missione assicurativa tradizionale. Questo so che è un discorso al quale tiene molto la dottoressa Maier, adesso ne parleremo tra qualche istante. Io intanto intanto ricordo il numero verde per intervenire, 800 24 00 24. Raccontateci se siete tra i sottoscrittori di polizze degli ultimi mesi, se siete coloro che hanno contribuito così tanto ad un incremento della raccolta del settore così esponenziale, così marcato, e raccontateci che cosa avete ricercato e se siete sicuri del fatto che il prodotto che avete scelto risponda alle vostre esigenze. Magari appunto cercheremo anche di così commentare con voi un po' queste scelte. 349-238-6666 il numero invece per i vostri messaggi. In 10 secondi la borsa, l'ho già raccontata nel giornale radio, ma c'è un quadro negativo questa mattina in Europa in attesa della raffica di dati economici che arrivano oggi dagli Stati Uniti, ancora molte trimestrali, arrivano anche delle statistiche ancora sull'andamento del mercato immobiliare, l'indice di fiducia dei consumatori, per cui oggi giornata cruciale appunto proprio per gli Stati Uniti. L'Europa viaggia negativa, l'euro sul dollaro in retromarcia a 1,39,50, Milano oggi acquisti soprattutto su Autogrill più 1,82, Finmeccanica più 1,34, Snam più 0,6%, Atlantia più 0,57, Terna più 0,54, quindi mercato molto orientato ai titoli difensivi, mentre scende dopo la trimestrale Azimut meno 3. Luxottica, vanno bene i conti, gruppo pronta a nuove acquisizioni, Nomura dice che è un titolo da comprare, ha emesso un buy e il titolo scende, meno 2,39%, male anche Saipem, meno 2, Geox, meno 2 e Mediolanum, meno 2%. Dopo la borsa andiamo alle polizze vita. Desiderio di protezione e di maggiore garanzia per il futuro. Queste le linee guida che hanno spinto sempre più risparmiatori italiani ad investire parte del proprio portafogli in polizze vita. In seguito alla recente crisi finanziaria, infatti, il mercato ha assistito a un'imponente ricomposizione del portafoglio dei risparmiatori, che alla ricerca di capitali garantiti si sono indirizzati appunto verso le polizze. Così, dopo un 2008 da dimenticare e un 2009 all'insegna del recupero, il settore, da inizio 2010 alla scorsa estate, ha assistito a un vero e proprio boom, con premi di nuova produzione per oltre 51 miliardi, in crescita del 28%. La maggior parte dei premi sono andati su polizze a capitale garantito di ramo primo, in crescita del 13,6%. Ma a sorpresa, complice l'allontanarsi dello spettro della crisi, hanno recuperato terreno anche le polizze di ramo terzo, le unit o index linked. Accanto alla voglia di sicurezza, a trainare la raccolta dei prodotti assicurativi ha contribuito sicuramente anche il rinnovato impegno delle strutture di vendita bancarie e postali. Non a caso, tra i collocatori, la parte del leone è andata ancora agli sportelli, bancari e postali, che hanno coperto i 2/3 della raccolta, più 29,6%, ma un ruolo sempre più importante è toccato ai promotori finanziari. 800 24 00 24, numero verde per gli interventi in diretta degli ascoltatori, oppure i messaggi alle 349-238-6666. Dottoressa Maier, responsabile ramo vita di Assicurazioni Generali. Così potrebbe essere anche abbastanza scontato che una reazione figlia della crisi possa essere quella che porta le famiglie verso prodotti semplici e verso appunto le cosiddette polizze di ramo primo, gli strumenti assicurativi a capitale garantito, visto che negli ultimi anni nella borsa, nelle obbligazioni hanno garantito un bel niente, anzi hanno bruciato larga parte degli investimenti degli investitori italiani. Sembra un po' meno scontato invece questa larga crescita di nuovo delle polizze ad elevata componente finanziaria come le unit o le index linked. Cosa racconta il vostro osservatorio rispetto a questo? Allora, intanto buongiorno di nuovo. Noi evidentemente dal nostro punto di vista confermiamo quello già previsto dalla scheda. È chiaro che uscendo da una crisi così importante e lunga, evidentemente il cittadino ha riscoperto la consapevolezza del valore della garanzia. Questa è una cosa evidentemente che a noi assicuratori fa bene, perché stanno riportandoci a riprendere il ruolo di assicuratore, una consapevolezza di sicurezza che in questo momento lo stiamo vedendo nel settore finanziario delle polizze, ma che c'è. Vogliamo assolutamente che ritorni ad essere nel cittadino anche per quanto riguarda le coperture demografiche, le coperture di lungo periodo. Io credo, per come vediamo noi il mercato in evoluzione, che ci sarà un ritorno verso forme assicurative di risparmio di lungo periodo, proprio per riaccompagnare il cittadino nei suoi progetti di vita. Questo è un concetto che mi sento di stressare in maniera importante, perché dobbiamo riprendere il valore del risparmio finalizzato a un certo intervallo di tempo. Quindi noi vogliamo riaccompagnare i cittadini nelle loro progetti di vita, considerando che la famiglia in particolare nasce, si modifica e ogni modifica comporta una modifica delle esigenze. Ecco, so che voi ci avete tenuto particolarmente a diffondere questa indagine che Swiss Re appunto ha condotto in questi 12 paesi europei sull'assicurazione vita, dalla quale emerge che i consumatori, come dicevamo all'inizio, non hanno percezione della necessità di assicurarsi. Quanto si lega anche questo osservatorio rispetto alle indicazioni che ci dava poco fa? In quali ambiti le famiglie sono largamente sottoassicurate? Allora, sicuramente dal punto di vista della copertura per il caso di morte o di invalidità. Noi abbiamo esperienze di anni ormai di raccolte in questo settore. C'è una grossa diffidenza nei confronti delle coperture per il caso di morte o di invalidità. Ognuno pensa che non capiti mai a se stesso, perché questo è quello poi che si sente anche dire nelle chiacchiere di corridoio che possiamo aver tutti nelle nostre frequentazioni, e quindi questo è un settore estremamente delicato, in particolare nelle fasi di crescita della famiglia, in cui ci sono anche delle esigenze di figli da tirare su, esigenze di completamento di risparmi. Noi sappiamo che l'ultima ricerca Eurisco aveva detto che circa solo il 5% dei decisori finanziari italiani ha una copertura a caso morte, e molte di queste sono coperture obbligatoriamente legate ai mutui. Quindi se vogliamo, la penetrazione, come si dice in gergo, dell'assicurazione caso morte sulla popolazione italiana è ancora molto più bassa di quello che le statistiche ufficiali riportano. E questo comunque, come ci spiegava prima anche Federica Pezzatti, è una partita diversa rispetto a quella di cui stiamo parlando questa mattina. Siamo ad uno step avanti, quindi stiamo parlando già di prodotti di investimento che comunque in certi casi, come diceva Federica, prima del 2000, anche grazie agli incentivi fiscali, appunto, hanno goduto di grande salute e grande felicità appunto nella raccolta, proprio perché erano prodotti ibridi che permettevano appunto coperture miste. Allora, noi adesso ci dobbiamo fermare perché abbiamo la prima pausa, 800 24 00 24. Quello che però mi piacerebbe capire dai nostri ascoltatori è perché negli ultimi anni, visto che le statistiche lo raccontano chiaramente, hanno riprivilegiato i prodotti assicurativi appunto per investire il loro denaro, per accantonare il loro risparmio. Chiaramente tutto questo è figlio della crisi, le obbligazioni sono andate sull'otto volante, la borsa ci ha bruciato i risparmi di 10 anni, per cui insomma è una scelta che è stata proprio orientata dalla crisi o è stata orientata da un pressing anche commerciale delle aziende che magari assicurative che vi hanno seguito, che vi seguono da tutta la vita, voi e la vostra famiglia. Raccontatecelo, e su questi argomenti ritorniamo tra poco. Il tema di Salvadanaio questa mattina è le polizze vita. Sono le polizze vita perché nell'ultimo anno e mezzo c'è stato un boom nella raccolta di questi prodotti. Nel 2009 il ramo vita ha raccolto qualcosa come 81 miliardi di euro in Italia. Nei primi 8 mesi di quest'anno i premi di nuova produzione sono stati altri 51 miliardi, e quindi questo qualcosa vorrà dire. Perché le famiglie stanno cercando questi prodotti? Sono pressati dalle banche e dalle assicurazioni ad investire sugli strumenti assicurativi piuttosto che su fondi di investimento che puntano sul mercato azionario piuttosto che su quello obbligazionario. Insomma, cosa sta succedendo? È una esigenza, una tendenza figlia della crisi o c'è qualcos'altro? Allora, stamattina ci stiamo confrontando con la nostra Federica Pezzatti, collega di Plus 24 del Sole 24 Ore, con la dottoressa Antonella Maier, responsabile ramo vita di Assicurazioni Generali. Indagando in queste nuove esigenze c'è chi la vede in una maniera abbastanza precisa. Allora, io comincerei a far sentire i nostri ascoltatori perché hanno già delle sollecitazioni molto interessanti. Ferdinando da Brescia, ovviamente comincio con lei, buongiorno. Buongiorno. Io mi occupo di assicurazioni, sono un agente di assicurazione e mi piaceva fare questo tipo di osservazione. Senza entrare nella specificità dei prodotti, credo che siano prodotti che più che sollecitati dalla domanda siano in forte crescita quando hanno una grossa sollecitazione dall'offerta, di offerta. Io credo che il canale di banca assicurazione sotto questo punto di vista sia determinante. Mi pare che i numeri percentuali riferiti alla raccolta complessiva spostano molto la raccolta sul canale bancario. Quindi mi chiedo in realtà se sia veramente un'esigenza dei consumatori aderire a queste forme di investimento / assicurazioni, oppure se sia un'esigenza più di raccolta, soprattutto del canale bancario, e quindi una forzatura che il mercato in realtà non cerca questi prodotti, ma vengono estremamente sollecitati. E sotto questo punto di vista la dottoressa Maier mi sembra forse che possa anche darci un riferimento importante a questa osservazione. Certo, abbiamo il player di mercato più grande in assoluto. Grazie Ferdinando. Allora, dottoressa Maier, non è un'osservazione che fa solo Ferdinando, ma ce la stanno indicando in molti ascoltatori. Sappiamo bene quanto negli ultimi 3 o 4 anni le banche hanno fatto difficoltà a fare raccolte, soprattutto quelle banche che potevano esprimere anche una parallela società assicurativa, ovviamente hanno trovato questa modalità anche per fare funding, per fare raccolta, insomma. Quindi in sostanza si dice sì, questo boom della raccolta dei prodotti vita c'è stato, ma perché cavalcando anche l'onda della crisi, per l'offerta è stato più facile penetrare più consumatori, più risparmiatori, più investitori. No, allora, confermo quello che diceva l'ascoltatore, nel senso sicuramente il canale bancario si è fatto fattore trainante di questo fenomeno, però anche generali, giusto per fare un riferimento concreto, operatore tradizionale con rete tradizionale del mercato italiano ha avuto anch'esso una grossa raccolta di ramo primo, quindi polizze con rendimento minimo garantito, ma con il canale del promotore? Prego? Con il canale del promotore, quindi no, non per lo sportello. Generali colloca tramite il rete di agenti di assicurazione. Abbiamo fatto una raccolta molto importante di prodotti di investimento, recuperando un concetto a me molto caro, che è quello del risparmio finalizzato. Abbiamo fatto investimento, sì, ma con l'obiettivo di costituire una disponibilità economica in un preciso momento di vita dell'assicurato. Questo è un concetto molto importante, quindi l'assicuratore tradizionale ha fatto raccolte in questo periodo verso un cliente consapevole del bisogno di sicurezza e quindi di garanzia, ma anche riqualificando quella che era la sua necessità di investimento. Questo dottoressa Maier, no, è chiaro che lei ci racconta quello che ha fatto la sua azienda, ma così è comunque anche evidentemente la sua professionalità che si guarda anche intorno e cerca di capire un po' anche che cosa fanno le altre aziende, senza dare nessun tipo di giudizio naturalmente. Secondo lei sul mercato è accaduto esattamente quello che è accaduto in Casa Generali, quello che lei ci sta raccontando? Tutti si stanno riportando un po' sulla vecchia mission della professione assicurativa? Io sono convinta, e questo è anche quello che si sente quando facciamo qualche tavola rotonda fra addetti ai lavori, c'è assolutamente un ritorno al ruolo dell'assicuratore nel senso più tradizionale del termine, con una ripresa di consapevolezza di dover dare copertura al cliente in un periodo che vada anche nel medio-lungo. Questo noi siamo convinti che anche il mercato sta ritornando a quelli che definiamo i fondamentali dell'assicurazione, anche le gestioni separate di conseguenza, che sono lo strumento finanziario che abbiamo collegato a questi prodotti, non potranno altro che beneficiare da questo tipo di impostazione, perché verranno caratterizzati degli investimenti che hanno un obiettivo di medio-lungo termine. Federica, questa indicazione che la dottoressa Maier ci sta dando, che cosa vuol dire? Che sul mercato nei prossimi anni non vedremo più unit o index linked, e quindi per esempio non vedremo più quelle polizze che abbiamo visto in passato e che ci hanno anche un po' travolto, ad esempio legate ad un'obbligazione Lehman Brothers o ad una banca che si chiama in maniera diversa? Ma adesso sarà un po' più difficile proprio perché ISVAP ha emesso una circolare che proibisce di esternalizzare il rischio a terzi. Quindi e non a caso le index linked adesso non le propone quasi più nessuno. Quel recupero di raccolta è un recupero, però se si guardano i volumi intermediati da questi prodotti si può vedere che sono 4-5 le compagnie che ancora li propongono, proprio perché ci sono più vincoli, ci sono più riserve da mettere in conto per le compagnie, quindi di fatto sono prodotti diventati un po' infruttiferi per motivi proprio di costi, di onerosità di costruzione. Viceversa abbiamo notato che nel settore del ramo primo, che comunque è in grande spolvero, stanno modificandosi i contratti, quindi ciò che veniva in passato garantito, quindi il tasso minimo del 2%, è in via di ridefinizione. C'è chi lo annulla, c'è chi come alcune compagnie lo dà solo a una certa scadenza, e penso anche forse a Generali, cioè se tu rimani fino a una a una determinata data io te lo retrocedo, altrimenti non te lo retrocedo. Per cui quelle che erano le peculiarità e i fattori vincenti di queste polizze dal punto di vista dei consumatori, queste polizze stanno un po' cambiando pelle e quindi stanno diventando un po' più avare, proprio perché diventano anche molto onerose per le compagnie che devono retrocedere di anno in anno almeno il 2% della gestione di quanto investito. Quindi sostanzialmente di fronte a tassi di mercato i bot sono vicini allo zero. È chiaro che questi prodotti almeno formalmente hanno delle buone carte, hanno dei buoni vantaggi in questo momento per i risparmiatori, certo. Con l'avvertenza che però bisogna guardare la gestione separata a cui sono collegati, che rendimenti storici ha avuto. Che cosa vuol dire avere una gestione separata collegata? Vuol dire che i premi vengono al netto dei costi investiti in una gestione separata, un grande salvadanaio che nel caso di Generali funziona molto bene, nel senso che la loro gestione GESAV riesce di anno in anno a, non voglio far pubblicità ma sappiamo che però, tu sei severissima quando è necessario. Sappiamo che ci sono queste gestioni separate, che sono dei grandi portafogli che hanno dentro dei titoli. È chiaro che se io vado a investire in un portafoglio storico che ha ancora dei buonissimi titoli dal punto di vista delle cedole, magari BTP che hanno ancora delle cedole molto interessanti, io entro e ho determinate prospettive. Se i miei soldi vengono investiti in una nuova gestione separata di una banca, per dire, che si sta costituendo adesso con i tassi di mercato dei CCT o dei BTP di adesso, è chiaro che in prospettiva, poiché il rendimento annuo viene calcolato di anno in anno proprio dal flusso cedolare di questi titoli che si hanno in portafoglio, è chiaro che se io sono in una gestione storica che ha determinati rendimenti storici e che ha un certo volume, sono più tutelata di magari andare in una gestione bancaria che, vedendo anche i tassi che vengono pubblicati, è senz'altro meno sicuramente meno prospettive. Per cui bisogna stare anche molto attenti quando si comprano questi prodotti, da un lato i costi, dall'altro al contratto, vedere se c'è un minimo garantito e vedere il tema costi è molto interessante. Il tema caricamento, sì. Vedo che appartiene a molti SMS al 349-238-6666. Su questi aspetti andiamo dopo i suggerimenti per chi è in viaggio. Allora, da che cosa partiamo? Dottoressa Maier, quando un piccolo risparmiatore, una famiglia sceglie, io immagino, una polizza vita appunto appartenente al ramo primo, cerca la protezione totale del proprio investimento, no? Cerca di accantonarlo, lo mette da una parte, magari lo vuole tenere lì per 10-15 anni e quindi trovarsi questo gruzzolo magari alla fine del percorso lavorativo. Io mi chiedo, è tanto difficile per un gruppo assicurativo proporre un prodotto che permetta appunto di raggiungere questo obiettivo da una famiglia proteggendolo banalmente dall'inflazione? Voglio dire, cioè, perché non c'è più niente di questo genere sul mercato? Mi piace se mi dice che non c'è più niente di questo mercato. No, perché non facciamo altro che parlare di prodotti che si sono tanto sofisticati dal punto di vista finanziario, no? E quindi lei dice sì, ovviamente prima ci faceva il discorso che adesso l'assicuratore vuole ritornare a fare questo mestiere, quindi ad accompagnare in tutta la vita, la famiglia, eccetera. Però siccome sentivamo prima anche tutte le considerazioni che ci ha fatto Federica su quanto si è trasformata in questi anni l'industria e quant'altro, però io credo che quando una famiglia sceglie un'assicurazione, sceglie quello, si vuole assicurare. Non c'è dubbio su questo, io sono convintissima di quello che lei sta dicendo. Questo recupera anche un concetto che dicevamo prima, perché prima avevamo detto che c'era un gap di copertura sulla parte morte e invalidità. Abbiamo anche dei gap di copertura sulla parte dei piani di risparmio, sulla parte dei piani di previdenza. Se non so, però questo è anche... stiamo assistendo e assisteremo nell'arco di 5-6 anni, andranno in erogazione le prime rendite previdenziali in forma mista, sia forma contributiva che retributiva. Quindi ancora, secondo me, oggi l'assicurato, non il cliente, il cittadino, non ha ancora la piena percezione di quella che potrebbe essere il gap previdenziale rispetto agli standard a cui erano abituate. Quindi dovremmo ancora assistere a un movimento di pensiero sul mercato che toccherà necessariamente anche l'industria assicurativa, di presa di coscienza di un gap che sarà assolutamente economico e batterà indubbiamente sul reddito disponibile delle famiglie nel momento, tra l'altro, più delicato della fase di decumulo piuttosto che di accumulo, no? Quindi in questo senso il mercato deve poter offrire piani di risparmio per accantonare un qualche cosa, ma deve poter offrire anche piani di previdenza. Questo è fortissima la necessità ed è fortissimo il bisogno che verrà espresso a breve dal mercato. Perché, dottoressa Maier, l'industria assicurativa non riesce a fare a meno di caricare i primi anni di versamenti delle polizze in maniera qualche volta insopportabile? Io capisco che lo spirito di una polizza è quella di portarla a scadenza, perché altrimenti fallirebbe proprio il suo obiettivo primario. Ma detto questo, ci possono anche essere delle circostanze per cui una famiglia investe in questo gruzzolo con l'obiettivo di tenerlo lì per 20 anni e poi però magari capita l'emergenza per cui questo prodotto va disinvestito. E non si riesce mai a capire il motivo per cui ci si ritrova ad un disinvestimento che praticamente ha vanificato quasi tutti i versamenti fatti. Questa politica dei caricamenti non può essere, secondo lei, rivista? Non si può proporre qualcosa di più trasparente, più chiaro alle famiglie? Perché quasi tutti non sanno mai come funzionano i primi anni di versamento delle polizze. La trasparenza è un valore, indubbiamente, senza che sia una banalità, ma è un valore che per primo l'assicuratore si augura. La normativa, come diceva la dottoressa Pezzati, ci porta in questo senso ad essere sempre più trasparenti. Più è chiaro il patto tra noi e il cliente, più è facile raggiungere gli obiettivi che abbiamo definito insieme. Quindi sicuramente questo è un passaggio necessario. Il fatto di remunerare, poi ci sono dei discorsi che comunque c'è un'attività consulenziale, perché più il piano è un piano di risparmio, un piano previdenziale destinato a costituire un qualcosa di importante, più c'è necessità di trovare lo strumento adatto. Questa attività consulenziale è un'attività che è corretto, secondo me, che venga remunerata. Sì, sì, no, ma questo io non è che mettevo in discussione questo, è chiaro che dietro questo senz'altro, che qualche volta sembrano questi caricamenti assolutamente sproporzionati rispetto in primo luogo alla consapevolezza, appunto, del sottoscrittore, e poi ecco, c'è questa situazione di cui io racconto spesso, voglio dire, qualche volta uno va a fare un prodotto di investimento in banca o in assicurazione proprio con l'obiettivo di accantonare il suo risparmio, ma può capitare l'emergenza, e il problema è che non sa mai che, come dire, disinvestendo in grande anticipo un prodotto che magari avrebbe una vita molto più lunga, ci perde tantissimo. Quindi io banalizzo molto il discorso della dottoressa Maier, poi però ecco, la famiglia, questo è il discorso che fa con il suo consulente, non trova? Certo, è molto corretto questo. Teniamo anche conto adesso per, come dire, se vogliamo comprendere qual è l'entità dei costi delle polizze, che comunque l'assicuratore in questi piani di lungo termine ha delle garanzie finanziarie, ma soprattutto delle garanzie demografiche. Cioè oggi lei compra delle garanzie che potranno essere opzionate nell'arco di 10 o 15 anni, che sono garanzie anche di conversione in rendita. Quindi questo vuol dire oggi dare a modo nostro una sicurezza di sapere esattamente quale sarà l'importo che verrà devoluto in pensione a quella certa data. Questo è un qualche cosa che qualche volta non si percepisce come un costo per l'assicuratore, però evidentemente questo ha una ragione d'essere proprio nella necessità di quantificare correttamente quella che sarà la prestazione. Stessa cosa si dica per le garanzie. Ritorno prima al concetto che diceva lei, che potremmo assistere alla scomparsa dal mercato di prodotti o di prodotti con garanzie e quant'altro. La garanzia non è che noi non la daremo o che la daremo ridotta, la garanzia deve essere, e questo vorrei che fosse anche un po' sottolineato, che sia assolutamente coerente con la scelta dello strumento finanziario. Cioè noi non possiamo dare garanzie importanti in piani di liquidità o movimenti di denaro molto a breve, possiamo dare garanzie anche importanti se la scadenza del contratto ce lo consente. I rendimenti che abbiamo visto sul mercato delle gestioni separate vivono anche della coerenza fra quelle che sono gli investimenti con la durata dei contratti stessi. Questa è la forza della gestione assicurativa. Il tempo a nostra disposizione stamattina è volato, 3 minuti di tempo, chissà se riesco a sentire le riflessioni di altri 2 ascoltatori, cerco di farli intervenire in maniera molto breve. Roberto da Milano, anche se per la verità la consulenza che serve a lei necessiterebbe di una trasmissione per intero, ma noi di questo tema ci siamo già occupati in passato. Roberto, buongiorno. Buongiorno, chiamo da Milano, un'informazione, sarò breve. Una formula assicurativa di investimento per un figlio, io ho un figlio di 17 anni, che mi dia insomma una garanzia. Ho sentito già delle risposte da parte vostra in attesa su questa cosa. Grazie. Se esiste qualche formula del genere. La sfera di cristallo è un'esigenza molto diffusa, Federica, ma quella che ha sollevato l'ascoltatore, perché si tende a dire che magari a questa età, magari chiaramente il 17enne non ci pensa, ma il suo genitore sì. Da un lato la legge prevede ad esempio che per i figli a carico o parenti a carico lo stesso una persona possa ad esempio stipulare dei fondi pensione, quindi questo è un vantaggio fiscale che viene concesso anche per le persone che si hanno a carico, che non tutti utilizzano. E dall'altro è chiaro che in un mondo in cui il precariato dei giovani purtroppo va avanti fino a 30-40 anni, quello del proprio c'è questa generazione di giovani che dovrà ricevere dai propri genitori e non più dare come in passato, insomma generalmente è chiaro che strumenti finalizzati ai piani di studio eccetera sono strumenti molto utili proprio perché i giovani di oggi devono studiare in una società sempre più complessa, quindi è chiaro che magari iniziare con dei piani previdenziali quando sono già in culla sarebbe bene farlo con i PAC, farlo con forme d'accumulo che consentono mese per mese di iniziare a potenziare perché quel salvadanaio che serve per fare una scuola sempre più costosa, ahimè, purtroppo. Allora, 30 secondi di tempo, gli do la dottoressa Maier, ho due indicazioni di massima ai nostri ascoltatori che comunque vogliono continuare appunto a puntare su questo prodotto di investimento con l'obiettivo di ovviamente proteggerlo al massimo. Dottoressa Maier, qual è un discorso molto, molto franco che possono fare con il loro consulente? Deve essere bravissima in 30 secondi. 30 secondi, confermo quanto ha detto dottoressa Pezzati, il vantaggio dei piani individuali di previdenza, perché non ci si rende conto di quanto si riesca ad accantonare nel lungo periodo, nei 20 anni, anche a favore dei figli che potranno poi loro diventare parte attiva nel loro risparmio se già iniziato dal genitore. Dall'altra parte piani di risparmio che vedono la costituzione anche di una rendita, non necessariamente quindi un piano di previdenza secondo la normativa Covid, ma dei piani di versamento che possono costituire nell'arco di un intervallo di tempo lungo, questo è molto importante, poter versare 2-3 mila euro all'anno, quindi delle cifre alcuni tipi di Lo so, però un po', dottoressa Maier, devo salutarla purtroppo come sente perché abbiamo la sigla, è una cifra molto importante, molte famiglie non possono permettersela, le prometto che riesploreremo di nuovo questo argomento molto presto. Da Salvadanaio, a domani. Salvadanaio.